Capitolo 28. Eltersdorf, febbraio 1527. Proprio così. Fu in quel modo che lasciammo Mühlhausen. I ricordi di quegli ultimi giorni sono nitidi come il profilo delle colline in questa giornata terza. Ogni parola di Magister Thomas, ogni frase di Ottilie, escono dalla mia memoria come le note di un orologio musicale olandese. Il peso del passato trascina le funi e fa girare il meccanismo. Il rumore delle ruote, dei tre cannoni lungo la strada, il saluto delle donne sui campi, la felicità eccitata di Jacob e Matthias, che paiono passeri intorno a un carro di grano, l'incontro con i fratelli di Frankenhausen, la prima notte, passata nella piana, poco fuori dalle mura, in attesa di muovere contro le armate dell'Angravio d'Assia, venute a far giustizia dell'ennesima città insorta. Proprio così. Elias, furibondo, ripete che siamo soltanto 8.000, lui che, a colpo d'occhio, sa valutare la consistenza delle folle. L'eco dei suoi insulti ai minatori di Mansfeld che non sono arrivati, trattenuti dalla promessa di un aumento della paga giornaliera. La notizia che Fulda è stata espugnata da 10 giorni e così Eisenach, Salza e Sonderhausen. Tagliati fuori, isolati. Il Langravio Filippo si è mosso in fretta e ci ha girati. Di Denk non si ha notizia, ma anche se avesse trovato uomini e armi, a quest'ora si troverebbe già dietro le linee del principe. A maggior gloria di Dio, a maggior gloria sua! Il grido del magister di fronte a quelle notizie. Volessi ripeterlo ora, quell'incitamento, qui, sull'aia della canonica di Vögel in faccia a oche e galline, so che sarebbe precisamente lo stesso. Ma ho la forza soltanto di masticarlo un po' tra i denti, sottovoce. Il meccanismo gira. Ottilie che organizza la retroguardia a Frankenhausen. Alloggi, difese, approvvigionamenti. Continua a girare, i volti di tanti, con la precisione del ritratto. Occhi azzurri, naso adunco, di un maniscalco di Rottweil, mento carnoso e baffi biondi, e ancora naso schiacciato e orecchie a sventola. Visi e voci, uno dopo l'altro. Hans Hut, che stampa i libri sul carretto, il cavallo già pronto per essere attaccato. Un piccolo libraio, inadatto alla battaglia, che vuole tornare alla sua stamperia. A un tratto uno strappo. La fune si inceppa, le note stonano, stridono, si fondono in un unico ronzare. I colori si mescolano sulla tavolozza della memoria. Il ricordo muore e lascia spazio all'orrore confuso.